Vamo pure andremo. Uno, due, tre stella. Uno, due, tre stella. Per non grava. Manco per il coso 5, giochiamo, non solo io, uno, due, tre stella. Vabbè, bianco per me, vado a mangiare brangudia, ciao. Ha chiesto mi armata della scusciata dell'isola della Sardegna, adelante, per un comprendito. C'è nessuno su 10? Allora, attenzione al canale 10. Cavagnagna. Chi è? C'è là, c'è là. Cirime. Cirimella. Aia. Luca Cirime. E Luca. Luca. Ecco. Questo qua non esce da Parigi. Bene. E allora, fatti dire. Non ribigliuarsi, si dà mille luci. Ah, vabbè, finisce uno già. Vabbè, finisce uno. Sì, siamo a settembre, prima di Zian, sai, la gente se va a mare, mia valla. E la valla è una picca. No, fa poco per inverno, per freddo, ti dici, capito? Gianni, guarda questo microfono di Luca, se sta funzionando bene, lo messo a posto. Senti qualche fruscio? No, assolutamente. Ok, ho cambiato quell'interruttore di sotto, sempre quello, quello dell'avanti. Quello che ti fa difettare il 60, si consumano, capito, e raschia, mi frigge. Avevo capito, il 60 gli hai detto che stavo uscendo col soffio, questo. Sì, no, adesso va bene. Prova a bere la portata, se sa parlare, vediamo un po'. No, si sentono solo i rumori sottofondo, forse alto, si sente il televisore, penso. No, va bene. Io non va bene, cuffia sì, anche a sento la TV, però quando me l'ha dato faceva... Il ragazzo è allevante, è opponente, il microfono. Cioè va bene adesso, dai, cioè va bene. Adesso Luca deve darmi... Mi via, ma faccio proprio roba che sono. Quelli sono gioielli, dopo Gianni, sono gioielli. Se tu immaginate che io ho venduto il 4,40 e mi sono tenuto il 4,30, ma ho venduto non perché mi servono soldi, ma proprio per farlo fuori, perché basta, non voglio più. Mi sono tenuto il 4,30, il 140, che sono dei muretti. È il numero uno con la radio, mai creato problemi a Fabrizio, ma ha sempre detto numero uno. Mi ha cambiato il display una volta perché si era bruciato l'ultimo decimale, praticamente anziché fare 00 faceva 0 e non va bene quando ti sposti in banda laterale, capito? Non hai il decimale giusto, però mai un problema come il 440, 4 volte grazie a 180 euro GPS. Lo so, il 440 ha quel difetto, ma tra le altre tutti che lo fa, là. Bisogna avere un po' di fortuna anche lì. Ah, guarda, io ti dico una cosa, avete in radio. Allora, io mi ricordo che lo comprai nuovo da Mario Notari in Viale Mamili, 440, pagato 2.650.000 lire, così non vedo la luce domani. Assieme a me c'era Walter, c'era Marco, c'era Vannino, c'era Pier Giacomo, non sta più entrando, Giacomo Sam, c'è un sacco di gente. Dopo due anni, sono andato a accendere la radio, nuova, comprata nuova da lui. Questi puntini, proprio sono usciti i puntini, qualche minuto e poi si è messo a posto. Ho telefonato a Mario e ho detto, Mario, la radio così e così, no, portamela che già so che cos'è. Lui sapeva già, perché è un venditore, un rivenditore che dove sa già i difetti della radio, capito? E da lì poi lui non me l'ha detto, per cos'era? No, un falso contatto, niente. Carlo Carboni, CH23 di Chiaramonte, che di quelle ne aveva già masticato abbastanza, le modificava pure, infatti mi ha insegnato lui a modificarle, nel senso a darle un po' più di apertura in AM. Lo conosceva già il problema, lo conosceva già, capite? Quindi non è questione di... è nata così proprio, l'hanno costruita con questo difetto del VCO, si abbassano le tensioni del VCO, del cuore della radio, e escono questi puntini. Se sei fortunato rifai le tensioni, se no devi cambiare tutti i condensatori. Cavolo, non ce n'era una su internet, 500 euro c'era tutta la linea, 440, colonnina, l'alimentatore dedicato, insomma, è il microfono invece 80. tutta la linea, 500. Sì, vabbè, non c'è la corrottore automatico, io c'ho tutta la linea, però c'ho la T250, c'ho la linea 430 completa, 430, T250, SP, il PS50, l'alimentatore suo, l'SP430, la colonnina sua, l'MC60, capito? Io c'ho tutta la linea, lo stesso completa, però io c'ho la corrottore di linea perché il 430 non ce l'ha internamente, quello invece ce l'ha internamente, quindi vengono l'alimentatore, l'alimentatore, la colonnina e basta. Ma comunque è un buon prezzo, 500 euro si può comprare tutta quella roba. Ma tenendo conto che la radio vale 350 euro, è ancora sul mercato a 350 euro. C'è chi ha la 400, ma deve essere veramente in ottime condizioni. Quindi fate lui la tirando a 400 euro, 50 euro di colonnina, 50 euro di alimentatore, no, perché l'alimentatore usato costa 100 euro, ma a volte anche 120, PS50. Quindi 350 euro, sta valutando la radio, 150 euro il sicuramente, o 100 euro colonnina e boh, non lo so, bisogna vedere la valutazione, comunque 500 euro può anche andare bene. Sì, la radio è nuova, nuova, è lucida, proprio perfetta, funziona bene, eccetera, eccetera. Ma è sempre 4,40, quello è quello che mi ha bloccato. Insomma, io ti ripeto, quindi ho dato gli ultimi due che ho dato da vetrina, perché le mie sono da vetrina, Luca le conosce, ci scambiamo le foto a volte. 4,30 che c'ho io, Luca, com'è? Luca. Ha detto da buttare via. Cosa ha detto? Da buttare via. Non penso. Ma che non è vero, non ha risposto. No, va, bella, bella, bella. E così il 140, il mio 140 è impeccabile, lo stesso, nuovo, senza graffia del frontalino, perché io non capisco come facciano a graffiare il frontalino, evidentemente muovono l'Israele con le unghie, invece va mosso col polpastrello, è nuovo, sia esternamente, internamente, tutto. Quindi quando tu già hai una radio che meccanicamente è a posto, controllata da esperti, da tecnici di fiducia, e ti dico la radio è a posto, allora la puoi vendere a posto, quindi se è a posto, per dire, quanto vale 300, ci metti 50 euro in più perché meccanicamente è a posto ed è presentabile anche esteticamente. Magando due, andai a comparare 350 euro come foto che mi manda Luca di 300 euro di una radio di un 140, tutto mangiato dai topi, ma che altro, ma non ti vergogni, io mi sarei vergognato solo a metterla in vendita. Ma tu il 140 lo stai vendendo? Non so, sto decidendo, perché mi sta entrando un 757 GX2 System, è l'ultimo che hanno fatto, io l'ho avuto, e per non avere doppioni, perché io di 140 ne ho dato due, ne avevo tre, ne ho dato due, ma ripeto, per farli fuori, perché non mi va più di fare la collezione, sono arrivato anche a 6, quindi sono indeciso se fare un cambio con, come ho detto a Luca, con quel 757 GX2 Cat System, oppure darlo così, non lo so, devo decidere. Oh, chi compra il mio 140, è questo, guarda, io sto usando il 140, chi compra il mio 140 compra una radio nuova esteticamente e meccanicamente, nuova, in buonissime condizioni, fatta allineare, fatta controllare bene, in modo che non ci siano problemi, però ti ripeto, sono indeciso, non so io neanche che cosa fare, la verità, vai. Se venderlo a fare il cambio con questo Yaris. Gappa, Luca, dove sei andato a finire? Se cambio la gnagna. Abbonato, il mio 430 com'è secondo te? In ottime condizioni? Di più. Ah, manco male. A me, gente che l'ha visto, ma non è possibile, ma questo è... l'hai comprato nuovo adesso, residuo in magazzino, no, questo va da Gianni. Lo vuole Gianni. Cosa lo vuole Gianni? Sta cercando uno Gianni. Ho capito. Ne sta cercando uno Gianni. No, ma io non lo do questo. Assolutamente, posso dare il 140, perché il 140 ne trovo quanti ne voglio, faccio un paio di telefonate e mi rientrano i miei stessi, perché questo era quello mio. lettera, quello che io ho dato a Valerio, l'ha messo dentro l'armadio e si è dimenticato di averlo. Ed è più nuovo di quando gliel'ho dato. L'altro che avevo dato a Pinocchetto, uguale, che ho venduto a Antonello Alessio. No, non ce n'è problema, i 140 venne canto di buio. 4.30, non lo so, 4.30 chi lo dà, boh, secondo me c'è qualche problema, perché è impossibile che diano una radio del genere. Gianni, e stavo chattando. Gianni, bucaccioni, sempre donne nude sta guardando. Ma perché tu non c'hai niente sotto mano, Lu, da dare a Gianni? No, no, 140, però non lo vuoi più, me l'ha fatto prendere, non lo vuoi più. Hai un 140? Sì, se ti interessa, tanto per cosa, l'ho già fatto. Capito, se ti interessa così mi recupero quei soldi almeno. Che già che non trovi di chissà di Luca, ma qual è quello che mi hai mandato la foto? C'è la vetrina, è la vetrina che c'è una nuova con la radio, già la stai a cercare, a fare, non te la prendi quella? No, ma le mie possibilità, anche perché di cosa è quello? Io me ne 370 non lo do. Se no, niente, le condizioni estetiche, elettriche, nuovo, già hai visto le foto, cosa devo ridare? A chi no, che gli dà 100 euro, io gli devo dare 100 euro, ma non esiste. Esteticamente 140 è una bella macchina, se è bella esteticamente, funzionante al 100%, di meccanica che non è stata toccata, eccetera, 350 se rivale, è chiaro che se uno ci mette i soldi del trasporto sono 370, ma io qualche anno fa 350 euro l'ho venduta, quindi ho venduto una 380 con le MC 60 e gli altri a 300, ma insomma così, giusto per Antonello ad esempio, l'ho data a 300 e gli ho regalato l'MBP5 che mi aveva fatto Fabrizio proprio per il tappa, connettore a 8, alimentazione diretta, come il 60, capito? Va bene, KK di positivo. Ognuno guarda le sue tasche, così este. Lasciamo un po' paghi il tagliato, questo 140 a me lo. Ma tutto perché tu hai dato il vizio che le regalavi queste radio, capito? Io non le regalavo, capito? Se puoi la prendere da te è ancora meglio, se gliela dai tu a 50 euro, io non le do a 50 euro. No, questa 350 euro, non esce qua con il microfono normale. Assolutamente, poi se mi comprano anche 60 ci mettiamo d'accordo e facciamo un prezzo solo migliore, ma non è radio a regalare questo. Se ci non vanno qua, questa è la paura. Perché ti ho mandato la foto anche prima, te vai, te l'hai comprata nuova, questa è la paura. Nuova, Lucia, frontalino non c'è un graffio, anche gli slide è tutta frontale, case, nuova, capito? Assolutamente, quello della Cantonello era di matricola diversa da questa, mi pare che avesse 3-4 anni in meno, cioè in più, capito? Invece hanno le matricole, io le conosco, quindi, e allora le ho dato 300, ma questa è un'ultima serie, nel senso che è proprio una delle ultime che hanno fatto, non l'hanno fatta più, perché serie 7, siamo arrivati alla, erano, quanto mi pare sia serie 70, sia 80 come numero, questa è 720 come numero, quindi siamo arrivati mi pare a 750, si sono bloccati, poi non l'hanno fatta più. Questa, il giorno l'ho portata dall'amico mio a fare controllare, c'è il circuito di alimentazione ancora originale, anche la lampadina, il gommino, tutto in originale, mai stata toccata dentro, ma le fascette bianche che di fatti rubando. Vedi che viene a me, però se proprio devi dare non la dai in mano di quel prezzo, però vabbè, da 200, vabbè, fare un favore all'amico, ma anche a me per capire che le cose non si vuole regalare. No, beh, Antonello glielo ho dato così perché il prezzo è quello. Il prezzo era inferiore a questa, nel senso che è più adattata, però è in buone condizioni lo stesso. Ma questa, essendo un'ultima serie, nelle condizioni in cui non si può dare 300 euro. Assolutamente. Ti ripeto, io non vivo dalle radio, non vendo radio, però i prezzi sono questi, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, sto decidendo se resisto sino a, al 18 di dicembre, che c'è la fiera a Genova, carreggio un drolli e ci porto tutta la fiera. E con questo domani scendo con un'altra KF di ultima generazione. Bravo, bravo. Qua c'è 140, 50 euro da rivendere. E mi l'ha già fatta fare in fiera, io mi ha già fatto. Io il primo MC60 l'ho comprato proprio alla fiera di Genova, l'avevo pagato 40 euro, 40 euro, era lì, ho detto scusa, ma quel microfono è in vendita, sì sì, è in vendita, è usato, era in buone condizioni, qualche graffietta, ma io non l'avevo allora, avevo comprato il PS2000, cazzo, ero diventato radioamatore da poco, ero il buco più zero, ho detto no, no, vabbè, quanto è? Guarda, 40 euro prezzo fiera, ma non me ne fregavo con Marco, ma non vai subito, immediatamente. Il colpo grosso l'avevo preso con la colonnina del 920, SP8, cazzo, mi ha basinato ragazzi, mi ha basinato ragazzi, non ho chiesto il prezzo, me l'avevo ritirata Marco, cazzo, quando è venuto a portarmela, Marco ti ho portato la colonnina del 920, pronti, quanto ti vuoi, 180 cosa? Beh, cosa? Costano, c'è quella della Icom, dove c'è i filtri, tutto, costa 200 euro usata. E questa non c'è i filtri, questa c'ha le tre bande addirittura, quattro ingressi, cuffie, poi c'ha l'input, tutta c'ha, e tutti i filtri, alti e bassi, e poi c'ha anche la commutazione, CW, SSB, MFM, fate il conto, 180 euro, tutto il grafico, 180 euro, questa è la colonnina del 5000 uguale, però fa linea anche con l'effettino per 20, 180 euro, ma non vanno, non vanno, ui, se vai a prendere adesso non te ne battono 230, 250. Gianni, chattando stai? No, sono qua, sto ascoltando i vostri discorsi. E i discorsi del cacchio sono? No, di apparecchiature. Beh, io quello che sto cercando è un abbinamento MC60 col 140, poi se 430 è meglio. È un po' più difficile trovare 430, già. Io ti ripeto, non lo volevo. Se no, l'avrei dato, ma non lo volevo perché non si ha radio, mi dà un sacco di soddisfazione, me ne ha dato, non ho mai creato problemi con 140. Ho deciso di tenere quelle due perché sono due muletti. Se tu ti immagini che quello che va a Antonello, che certo ce l'aveva 5 anni dentro l'armadio, l'ha tolto, l'ha attaccato, perfetto. L'unica cosa è che se l'ha scaricata la batteria a litio delle memorie, me l'ha data per quello, a sostituirla. Io l'ho sostituita, l'ho tutta rimemorizzata, di nuovo l'ho chiamata, me ne ritirata, no, non la voglio più venderla. Come venderla? E venderla quanto? Quanto la può pagare? Vieni, passa a prenderti i soldi, va. Passa a prenderti i soldi. E sei anni fa, l'aveva pagata lo stesso prezzo che io gli ho dato, me l'ho ritirata io. Solo che ne avevo già altre due, una l'avevo promesso a Antonello e gliel'ho dato. Sì, vabbè, tanto, quella gente che c'è non fa di nulla. Mi sta avendo questo scrivizio in testa, ma per la gente che c'è, più che altro per ascoltare le bande radioattoriali, così, per fare ascolto. Sì, già, ma scusa, io non è che voglio intromettermi nei fatti tuoi, però tu già l'hai avuto 140 con gli MC60 e non eri al top, no? Lo sai. Quindi, per me, non essendo radioamatore, non usandolo, per usare il 27, ma non ti innamoro. C'è delle radio favolose che escono bene il 27 e continua a usare il baracchino per fare banda amatoriale, l'ho sempre detto, ci sono dei bellissimi ricevitori della Icom, della Kenwood, base, belli, della Tata del 140, del 430, anche più grandi, da dove vai a spendere gli stessi soldi, ma c'è un ricevitore 030, ci sono anche quelli con le VHF, UHF completo, ti prendi un bellissimo ricevitore, te lo metti lì, non c'è nessuno, accendi il ricevitore e stai ricevendo alla grande tutto quello che ti serve, con soprattutto la sicurezza che nessuno ti rompa le palle, capito? E valuterò, dai, vediamo un po'. Questo è il mio parere, appunto, ripeto, io gli HF ce li ho perché mi servono per fare attività amatoriale. Questi io li uso anche in 27, ma di solito ci vado in 10 metri, in 20 metri, in 40 metri, magari alterno, un giorno accendo uno, un giorno accendo l'altro, ma mi servono. La mia radio per la 27 è il Galaxy, che io uso spesso, adesso mi stavo usando questa perché 140 era un po' fermo, però la mia radio per la 27 è il Galaxy, che non ha niente da invidiare né al 140 né a nulla. Vai Luca! No, io non è tanto a Gianni. Ecco, ma appunto, se devi fare una chiacchiera di una mezz'ora, ma fatela bene, detto, fai bene a prenderti una di queste radio, no? Almeno quando entri con soddisfazione e cioè, poi scusa. Ecco qua, là, io commuto, problema non c'è, questa è sempre sotto antenna, non devo stare attacca, stacca. E va bene, però 27 va benissimo. KK. Ma tu cosa c'hai? Invece 60 in più, Claudio? 1, 2, 3, sì, uno ce l'ho dentro l'armadio. Ma già, microfono solo non lo do. Non lo do il microfono solo perché lo sai, io sono sempre di quelli che gira bandiera. Perché se faccio cambio oppure decido di prenderlo senza fare cambio col 757 della Jesu, il microfono della Jesu, l'M100 lo rimetto sul 920 della Jesu e quell'MC60 da Fabrizio mi faccio fare il connettore Jesu e lo uso con quello lì, capito? Se no poi rimango a piedi, devo comprare un altro microfono come ho fatto con l'820H della Icom, me l'ha fatto avere, me l'ha trovato Luca l'SM20, l'avevo venduto e poi sono rimasto senza, me l'ho ricomprato. Canto la Giubagato lui, l'SM20 della Icom, usato, dentro la scatola, nuovo, canto l'ho pagato. Vabbè, te lo dico io, 130 euro, compreso le spese di spedizione. Ma non sono tanto costato, nei mesi 60, no? Oh, già. Allora, io gli ultimi due che avevo comprato dalla Mascar, ok? Dalla Mascar me li hanno fatti pagare 90 euro l'uno, compreso il trasporto, 90 euro l'uno. Che li ho sempre venduto agli amici a 70 euro, massimo 80 euro, capito? Eugenio li aveva venduto a fare a 70 euro, nuovo, a qualche un altro a 70 euro, all'altro amico nostro a 70 euro, trovato a 70 euro, grazie a me me l'hai fatto pagare a 90 euro. Li ho visti anche a 100 io, Claudio, su internet, ma sono prezzi esorbitanti, dai. Su internet fanno prezzi cattivi, il Galaxy 350, ne stavo parlando ieri con Luca, dice quello lì sono i prezzi di mercato, lo nego uscì. Io ho i 140, ne ho venduto 3 e 3 li ho fatti pagare tutti quanti 200 euro l'uno. Di Galaxy? Il Galaxy sì, ma su internet sono da 300 alle 400 euro. Lo so, anch'io l'ho pagato 200 questo. L'ho pagato 200, però devi sapere che adesso io per vendere questa radio devo ridarlo nuovamente a chi me l'ha fatto, non dico chi è, ok? Ma non è quello di Sassari, stai attento. Non pensare che sia Fabrizio, no. Lo devo ridare a lui. Mi deve togliere nuovamente tutto dentro, che è una cosa fantastica da avere. Ritogliere tutto, rimettere la scheda eco, collegare la scheda eco. Cioè, devo togliere un lavoro che io ho pagato 50 euro. Più ce ne sono altre 50 di lineare. Ok, perché gli ho messo dentro un 747 che io ho comprato usato 50 euro. Va bene? Quindi, se io lo vendo così, che lo vogliono tutti così com'è, perché è veramente bello, è allineato bene, ok? Fatto bene, è allineato bene, è un casino. Invece se io lo vendo così, quanto costa la radio? 200 euro, cazzo, me li vuoi dare altre 100 euro per il lavoro che c'è. Ma ti sto dando una radio nuova con un lavoro eccezionale, una radio da 100 watt che è perfetta, capito? Perfetta. Io ti trovo la soluzione, io ti do 747 e tu me lo vendi 200 euro. Ma già credo di 747 già. Quindi ne ho collegato uno ieri al coso, al Pluto Colt. Già, tu guasci, io ti mando la foto che ho mandato a Luca, io ti apro l'anta dell'armadio, ti faccio vedere cosa c'è dentro, tu mi dici cazzo, ma lo già ne volta ce l'ho, perché non te la vendi? È pieno di radio, di lineari, di rosmetri, wattmetri, microfoni, c'ho 6 microfoni, tame più 3, 2 MB più 5, 1 MB più 4, il Salerca Master Plus, un Adonis nuovo, sono pieno di microfoni. Alla fine tutta roba che aveva carbonati, che non mi andava a vendere, l'ho messa dentro l'armadio, capito? Lo so, sigla. Già lo so. E vabbè, ma qui al momento opportuno la togli fuori quando ti serve. Certo che sì. Vedi, adesso io non sto andando a portarne più 3. Sto andando con l'MB più 5, perché te sì che lo faccio andare ogni tanto. L'ho tolto, ho messo a posto l'MB più 3 e sto andando con l'MB più 5. Perché i connettori che ho io sono tutti Galaxy, Elbex, c'ho l'Uranus anche, qua, c'ho l'Uranus nuovo, che è una bellissima radio, c'ho l'Elbex, c'ho il 3009, col 3009 che mi ha regalato Fabrizio, c'ho il Pluto Colt, sono pieno di baracchini veicolari, ma non idratto, io c'ho sempre questo attaccato qua, gli altri sono tutti dentro l'armadio. Ok, dai. Andare, ho capito, ma lo prendo da fuori. E se ti serve un Galaxy prendilo da fuori già, io questo non lo do perché mi piace troppo, è strano, è difficile che io moduli con baracchini, perché per me è sempre un baracchino, questo è base però completo, però me lo sono messo davanti a fianco alla linea Yaesu che mi occupa tutto lo spazio di sopra, collegato col commutatore già sulla T250 e quando ne ho voglia lo uso, capito? Però è un signor baracchino, poi io sollevo la levetta ed è una cannonata. Vabbè, io ce l'avevo esterno, era la stessa cosa, dai. Lo usavo con l'esterno e la resa era la stessa. Non so quanto dava un 747, questo lì da piedi 100 watt. Sotto strumento Kenwood della T250 sono 100 watt piedi, quando io ce l'avevo collegato al baracchino esterno, ad esempio l'altro che ci ho collegato al baracchino esterno ne dà 80, capito? Quali sono gli spezzoni, questo non ne ha spezzoni, questo è tutto collegato direttamente, è stato fatto un lavoro che è da paura, capito? E toglierle è un peccato. Ma 100 non li dà, ne dà 90 al massimo, il mio ne debba 90, 100 proprio non li dà, perlomeno comprato dalla casa, comprato nuovo, ne dava 90, ma proprio tirandolo al massimo la potenza del Galaxy, se no ne dava 80. Ho visto la potenza del Galaxy, 4 watt non è al massimo, ma ti ripeto, per come è messo, cioè quando tu già metti uno spezzone da 60 cm, poi l'altro, poi ci attacchi lo strumento, poi ci attacchi quello, ci attacchi quell'altro, va in perdita. Questo è diretto proprio sullo stadio finale, capito? Diretto. È come che sia nato così, diretto. Allora, guarda, io sono in scala 200 con la T250, stiamo parlando di strumento Kenwood. Io faccio così, aspetta, guarda, 200 watt, ti mando la foto, 100 watt, ti mando la foto, 100 watt, pieni, guarda se è cambiato qualcosa di modulazione, niente, perfetta. Sì, anche il mio non cambiava nulla, se lo mettevi con 4 watt, ma col mio saturava, cominciava a essere compresso se era stato tutto volume, cioè lo sai com'era il power, lo mettevo tutto al massimo, allora risultava un po' compresso, ma non nemmeno saturo, un po' compresso. Luca? Sì, mi sembra la T1 di 747, lo sto cercando, sto attaccare al birichino. Attaccare al birichino? Gappa. Lo so già, però questo è fatto professione, tra l'altro con tutto perfetto, cioè non... Io non è regolo di cose, capito? Non è regolo. Io se non tiro sulla leva, tiro sulle rezze power e mi dà 10 watt. Se tiro sulla levetta, il power lo metto a zero. Quando è a zero, lui sta dando 4 watt. 4, regolati da dentro. 4 watt. Tarato con lo strumento, capito? Fatto un blocco. Guarda tutto, 100 watt modulati, anche 105, 110, guarda. Con la T250. La modulazione rimane sempre bella stabile. Davvero? Eia, a Mucarolo. Tossimo. Kappa, buonasera a tutti. Oi, Massimino Bulldoze. Ciao, Massimo. Vabbè, ciao, non ho fatto ascolto, non so manco che c'è, ho acceso così, ho sentito il teclato. Siamo io, Luca e Gianni. Stavo facendo sentire, grazie, adesso lo stato. Ecco qua, l'interruttore. Lo abbassiamo. E va bene così, non c'è bisogno di attaccare niente. Allora, Massimi, tutto a posto? Ehi, tutto a posto, niente in ordine, sì, no, va bene, no, sì, tutto a posto. Là. Ehi, ascolta, te lo faccio sentire il colt, vedere se è regolato bene. Perché io non ho toccato niente, come l'ho preso, l'ho attaccato. Tu. C'è problema, sono qua, attacca, attacca. Ciao, già, buonasera. Ciao, Massimiliano, ben sentito, va. Ma a te non ti era rimasto un 140, Massimiliano? No, finiti 140 già. Non ti piatti. No, non c'ho più nulla di quella roba KF0. Non t'hanno soddisfatto? Non vedo io, ce l'ho venduto. Guarda! Massimiliano, sono agganciato e siamo intorno ai 100 watt, 90 watt modulati, come va la modulazione? Va bene, e il Michigin come ce l'hai? Il Michigin è a mezzogiorno, com'era? Non l'ho mai toccato io. Come a mezzogiorno? Sei sicuro che è a mezzogiorno? Buoni a manetta. Cazzo, non me lo ricordo però, Massimiliano, cazzo è da tanto che io non uso più questa radio. Tu ce l'hai uguale, qual è il secondo, mi pare, che era una modifica? Il secondo piccolino, quello stretto là. Allora, guarda. Ora, troppo alta così, Ora, va bene? No, per me va bene, vabbè, io sono lontano, chiedi agli altri. Gianni, come mi ascolti tu, cambio? Con la bomboletta. Vabbè, no, questo ha sempre funzionato bene, ma l'ho detto. Ascolta Massimo, invece guarda se stacco, perché questo se lo sai che le regolazioni le avevi fatte tu, mi pare che abbia 2 watt e mezzo, 3 watt per poter portare il lineare. Guarda, sgancio, così sono agganciato e così sono sganciato, com'è? Abbassa il segnale. Allora, qua fai da 9 a 9,10 agganciato, sganciato fai da 6 a picchi di 9. Che voleva? Allora, lasciamo stare agganciato, dai. Tanto questo 747 è nato per questo. Va bene che va bene. Vediamo Luca se vuole riprendere. Luca. Riprendi o... Quindi Massimiliano, confermato, lascio stare così, non tocco niente. Non toccare niente, dai. Grappa, va bene, dai. Vi saluto, che sennò l'amico Luca non parla. Mi fa dalla ringa. Va bene, dai. Vi saluto, ciao, buonasera a tutti. Ho interrotto il vostro discorso, là. Ciao Gianni. Saluto chi è in ascolto, Luca e Claudio, ciao. Ciao, Massimiliano, ci sentiamo. Ciao, ragazzi. Ciao Massimiliano, un abbraccio grande. Vabbè, no parole. Cambio nuovamente radio, era giusto così per fare una prova con Massimiliano, che lui è esperto in queste cose. Ti piace già? Possiamo provare su 45, va? Su 45 parlo. Io non che troppo voce. Ti cambio, se sono aspetto. E anche io non ho parole, dai, vi saluto, ciao ciao. Ciao Luca. Eccoci qua. E cos'è, cambiato radio? Certo, c'è una volta mi trovo un letto nel canale 10, quello è lì per farmi due chiacchiere sul 45, non per usarlo qua, qua stiamo bene questo. Figa, questo qui è forte, ma cazzo, quello che stavo usando prima si è soltanto volte più forte, cazzo. Oh, quello è un Pluto. Quello è un Pluto, che praticamente è un Galaxy. Però è colte, ma una bestia, una bestia, è sempre bello. Tutto rosso, pomelli tutti illuminati rossi, tutto frontale rosso, smite rosso, bellissimo. Molto, molto bello. A me piace il blu, a me piace come ce l'avevo io blu. Mi era giunto da un rigoso di Urbia, da un camionista che veniva da andare a scaricare. Cazzo, gli ho fatto morire, no, vedi proprio. E l'ho venduto perché mi ha dato la cifra che ho voluto. Ah, ma l'anno 48? E gli l'anno 48 ho già lavorato la buona di Giampaolo io. Poverino. Adesso c'era Gianni Dischetto, Giampaolo l'ha venduto a Gianni Dischetto e sta sempre funzionando il mio Lan 48. No, questa è un'altra cosa, questo è simile all'S9, capito? Una cosa del genere. Va bene, è fatto bene, dai, è fatto bene, anche la Lan 48 quando lo fai bene esce bene. Forse è uno dei migliori che si adatta alla Lan 48, poi ci sono anche gli altri che si adattano, però la Lan 48 è il mitico. Già, sai qual è il problema? No, tu l'hai già constatato, l'abbiamo constatato tutti. Il problema è che la Lan 48, se tu lo usi in macchina, è il numero uno in assoluto. Se non porti a casa non lo puoi usare. Io, siccome in macchina non ne avevo, mi faceva piacere usarlo anche a casa. Era un casino, perché anche quando andavo sul 45, prendevo colpi, capito? Prendevo colpi, se c'era Antonello sul 10, sul 14, dai miei vicini, Roberto, insomma, i miei vicini, mi faceva pezzi. Questo non senti manco nulla, niente, nulla. Ecco perché questi si possono usare, come l'S9 che c'è Massimiliano, questo, tanti altri, il 3009, Colte, quello che avevo che c'ha Valerio, capito? Questi si possono usare, ma il Lan 48 a casa non lo puoi mica usare. Vabbè, perché ti credi l'abbia venduto io? Perché io dopo che ho finito di lavorare non viaggiavo più, non lo usavo più in macchina, quindi in casa non faceva perché mi splatterava, bastava che entrassi su 23 mi splatteravano tutti i canali, e allora ho preso e l'ho venduto. No, anch'io ho fatto la stessa cosa già, però da Massimiliano avevo comprato il 3009 Colt, che poi l'avevo passato a Valerio e poi è arrivato questo, ma sono bellissime radio da avere Colte queste, perché ti consentono di divertirti senza bigliacolpi. Cioè, se quello là sentivo i camionisti sulla 131, io sul canale 45 e loro sul 5, perché erano tutti attrezzati come te e me, fatti rubò, quindi agito blu. Lo diamo via, non c'è problema. La radio deve volare una bella pulita ai pomelli, sì. Domani mattina ne ritolgo, me li lavo tutti, questi pomellini, kappa, c'è appena appena di polvere in mezzo, domani li lavo tutti e li ripiazzo. Capito mi hai, Luca? Luca deve aver chiuso, boh. Non ha avvisato né nulla, strano, che adesso è 7.25. Allora, tutti chiedendo presto state, ma ieri sera poi di notte è entrato qualcuno. Ah vai già, è entrato qualcuno, sono le partite, è iniziata la Champions, come tra nessuno di notte. Poi, qualche volta può capitare, ma io per esempio non mi va di stare in radio sino a tardi, anche se non ho niente da fare, però non vado a vedermi la televisione. Io non sento nessuno. Anche io guardo il telegiornale, poi se c'è qualche cosa al televisore me la guardo, capito? E quello è che praticamente che fai altre cose. Prima già c'entravo, anche fino alle 7 di mattina sono stato io, fino alle 7 di mattina. Entrava mamma quando stava a casa di mamma, ma non lo spegni quella cosa che sta consumando luce, sta disturbando anche. Sì, io quando ero a Sassi era la stessa cosa, quando ero a Fermo. Quando la mamma non è ribugliava di assai baracchini, quando era pronto stavo sino a certa ora e poi spegnevo tutto, capito? E allora sta dando adesso, che sono liscio, sta dando la scala dell'AM dello Smith, che è perfetto, a 10 watt sta segnando, con picchi a 12. La T250 sta segnando 10 watt e con picchi a 12. E quando è fatto con la sonda non è venuta la mamma laggiù. Guarda, la casa di mamma che avevo l'aria in quinto, il Giamba Aristocrat MB più 2 U, quello da Palmo, e ogni tanto mi telefonava a tuo sciopero. Ma passa chissà cosa che mi si spartano di tutti i garage. Ma Luca è rientrato? No. Hai chiamato Luca? Io sono Claudio, non Luca. No, io prendevano colpi un bel Porto Torres, perché c'era il Tarn più 3, il Tarn più 2 da tavolo, quello celeste, e la KB23. E uno speedy, una valvola che dava una cinquantina, 50, 70 watt, una cosa eccetera. Ma con i pareti pigliava, vero da volare nel letto di burrone, sai che è morto Torres, morto da poco. Abbonai metto i burroni, quando mi vedeva Pasquali ero in 10 metri e ti sentivo, non te lo dico più, non te lo dico più. Allucinante la storia, poverino. Ecco lo Scaramella, ancora vivo. Uno è morto di Scaramella, non lo so chi è vivo. Ecco, quello che abitava dove c'è la pasticceria, lì a fianco alla pasticceria, scendendo da via Petrarca dovrebbe essere. Sì, pasticceria Elenda, sì, il piccolo è vivo, il grande è morto. Ho capito. Kappa. Comunque ne morendo un bel di niente, che ogni tanto ne trovo uno, se non vado al cimitero ogni tanto mi viene un raio, adesso vedo gente che pensavo fosse ancora vivo e invece è morto. Non sono cose belle. Bisogna a volte stare attenti, limitarsi, perché veramente è un casino. Vabbè, comunque. E cosa ci vuoi fare? Pazienza. Bisogna fare molta ginnastica. Lo so, bisogna fare molta ginnastica. La batta che c'è Buvendi in questo periodo. Sto facendo poco di cose. Vabbè. Piano piano, solo che io quando faccio molta attività, nel senso di lavorativa, mi domaggio con un motore nel garaggio, allora me devo prendere una bustina. Ieri notte non mi ha fregato, mi ho fatto l'iniezione, prima di andare a letto ho dormito tutta la notte. Sono andato solo per bere e poi mi sono dormito a dormire. A dolore non ne avevo, capito? Invece sono altri notti, tre notti che sta dolori, da non poter stare. Ma te la fai tu la puntura o te la fa la tua compagna? No, me la faccio io, ho paura lì perché di quelle con l'ago lungo, dice se fosse stato con l'ago più corto sì, ma con l'ago lungo ha paura di troncare. Figurati che l'aria se le fa la pancia ogni venerdì, però a me il muscolo già me le fa, con molta attenzione, già me le fa, però lì se le fa la pancia per la dritta. Sì, anche le farina si fa in pancia. No, ma io me la faccio proprio la chiappa, mi giro, faccio il cottone con l'alcol e me la faccio, non ci vuole nulla, sto attento naturalmente, solo che non è che vedi dove è fatto l'alcol, quindi ci puoi andare sopra, capito? Quello è il brutto, se ti fa sopra ti può andare in suppurazione. Bisogna stare attenti a quello. Massimiliano, Luca, io entrate. Ecco Natalino, si senti tu. No, Natalino sono da tanto che non lo sento, almeno 3-4 giorni. Vabbè, io sto accendendo poco, in questi giorni ero sempre impegnato. Stiamo facendo, mettendo a posto un garage. Però manco la sera sta entrando, grande ieri, ma anche oggi l'ho chiamato Cuocomane, non mi ha risposto. Perché invece non è più Cuocomane, è cambiato spacciatore. No, se non è Cuocomane, lui lo sa che è Ferivella di legno, capito? Ferivella di legno. Dai che tu la mangi, Natalia, se c'è sta mangiando. Quest'ora alle 7:30 la mangi. Oh, qua c'è il tuo bel profumino. Sento profumino del peperone. Non ce lo sto facendo. Uia, cazzo che stanno. Speriamo che si riesca a dormire stanotte, cazzo. Rimane 4 dolci, tutto appiccicoso. Che mamma mia, cara. Lo so. Il caldo, ma la so, io mi lascio la finestra aperta, solo che mi fa bene, non è che se mi fa male i gruppi. Io lascio per forza aperta. Però mi non dà l'autostrada, capito? Dall'altro corridoio Caverio passa una bella corrente e la mattina cazzo devo abbassare appena appena, devo abbassare appena appena perché sennò c'è fresco. E che a vedere sia che Luca che sta mandando qualche messaggio, ma era arrivata gente, aspetta. Che è avanti? Ah, ciao Arghero, ben sentito, non ho capito, Mirko sì, ben sentito Mirko, ciao, poi è entrato qualche altro, avanti. Ehi, ciao Gian. Ehi Fra, beh, come va? Mica c'è Alghero, vi saluto, c'è anche Claudio. Magari arrivare Alghero io. Saluto ma no, non sento. Ciao Claudio. Ciao Fra, sai che sono al telefono. Sì, ah. Chi è Mirko di Alghero? Non lo so, non lo conosco. Poco fa mi sto, io sto rientrando da Alghero, sapendolo. Potevi attaccare perché ce l'avamo. Ce l'avamo, già ti sentiamo. No, no, sto scherzando, non era neanche macchina mia, era con un'altra macchina. Ah, ho capito, quindi non potevi fare nulla. No, infatti, stavo scherzando, era una battuta. Tutto bene, ragazzi? Ma, diciamo di sì, dai, Fra. A parte la gamba che mi sta dando problemi, e adesso dopo 22 ho una visita al policlinico, mi hanno fatto la risonanza magnetica, mi hanno trovato del liquido e il femore praticamente ci ha... diciamo che è un po' arrossata la parte del femore, della parte in volo del femore, c'è un'infiammazione. No, quindi un altro problema questo, non è quello che ho detto che avevi prima al tallone, com'era? Quello era un altro problema. Ma cosa c'è? Hai avuto già intervento tu? Hai qualche protesi, no? La protesi ce l'ho dall'altra gamba. Io sto parlando di quella sana, che era sana. E probabilmente il problema si risolverà come l'altro, operandomi e basta, tutto lì si risolve il problema così. Perché c'è anche consumo di cartilagine, insomma, una schizza sempre di fuglio della risonanza c'è di lui di gente. Il mio socio si è operato qualche anno fa, la protesi parziale però, non totale, diciamo solo la testa del femore le hanno cambiato, la parte del bacino è rimasta diciamo originale, però ha migliorato parecchio perché era messo male, non è un grillo però c'è anche 84 anni, quindi parliamo di una persona già grande, però ha risolto in parte il problema, è che lui aveva questa infiammazione, cioè il liquido dentro, io ho visto quando gli hanno inserito l'ago per far uscire il liquido, proprio è uscito da solo, esondava il liquido da solo, caspita. Tuo padre? No, il padre di mia moglie, mio suocero. Comunque anche a me me l'hanno fatta parziale, non me l'hanno fatta totale, mi hanno fatto solo la testa del femore con il pezzettino che va attaccato all'osso, va. Sì, proprio la testa del femore l'hanno fatta lui. E ripeto, quasi si trascinava da una parte all'altra, camminava diciamo con una mano sul tavolo e una mano sulla cucina, guarda. E lui non si lamentava mai, no, tutto a posto, sì. E io sono lo stesso, sto facendo così, mi tengo da un mobile all'altro, la notte non dormo, insomma, sto passando le pelle dell'inferno, credimi. Anzi, oggi sto bene perché mi ho fatto l'iniezione di voltare i muscoli, un po' sto bene. E diciamo che tampona, nasconde il problema. Come faceva lui faceva anche iniezioni di acido ialuronico e poi si andava a zappare in campagna però e si lamentava contro quello che detto che mi fulendi di là, ma non è così, se ti fa una puntura di acido, devi stare tranquillo, riposato, devi riposare, non te ne vai a zappare subito, appena stava meglio, no? Poi alla fine ha dovuto fare l'intervento, l'ha fatto a Ozieri, il dottor Zirano, non mi ricordo come è il cognome, una cosa del genere, però c'è che in gamba. Girato. Ho girato, non ricordo, una cosa del genere. Comunque, il cognome è quello. E operava, l'ha fatto già 5-6 anni fa, a Ossieri. No, girato era all'ospedale civile. Quello che ha operato erano i ricchi perché hanno operato a me. C'era Solinas, Diratu, Patta, insomma adesso Patta e Ozziri primari. Sì, no, è rimasto contento anche dell'ambiente come ospedale, no? Ma è così, nei paesi si sta meglio di un ospedale come Sassari che c'è un casino enorme. Sì, ma poi dice che Ozziri sono bravi. Sì, no, proprio gli hanno consigliato proprio andare lì. Beh, io l'altra gamba che mi hanno operato ho recuperato al 100%, no? Non zoppico più niente, nulla. E zoppico per l'altra, per quella che ho adesso che mi fa male. No, lui ancora si vede, ma ripeto, lui ha aspettato troppo, Anche tu se non aspettare più di tanto, perché tanto è solo soffrire inutilmente e basta. Non puoi mai vai a peggiorare anche l'altra cartilagine. No, ma io non sto aspettando, anche perché me l'hanno detto i dottori, quando mi sono operato quello, mi ha fatto il tempo in tempo, perché se consuma poi la zona dove scorre il femore, si chiama zona patibolare, quella zona lì, se consuma quella poi non c'è protesi che valga, perché poi ci gioca dentro. Se no poi devono fare con una fresa, togliere diciamo quella cartilagine e mettercene una artificiale, una specie di ghiera artificiale. Non lo so, comunque io l'ho fatta a Sassari, che dicono le dico di tutti i colori, e in un anno ero al 100%, non dico in 3 mesi, Claudio mi ha visto dopo che mi hanno operato, in 3 mesi salivo male le scale eccetera ancora, però camminavo già. Dopo un anno però ho recuperato il 100%. È buono. No, questo c'è ancora sale a 1-1 i gradini, cioè non fai i passi destra e sinistra, capito? Però ripeto, è una persona che ha 84 anni, c'ha altre patologie, adesso purtroppo sta andando peggiorando con altre cose, ma comunque è sempre positivo, non si lamenta mai. E hai quegli uomini forti che non vogliono dare problemi agli altri, già ho capito. Così era mio padre. No, non solo, è lui che va a curare gli altri, la moglie per esempio, che fisicamente cioè, potrebbe stare bene, invece non si mette un sacco di problemi. Ed è lui che la curisce, boh. Vabbè dai, sono coppie di altra era. Mia madre mi ricorda, se non usciva uno non usciva l'altro, usciva tutti e due insieme, se uno non usciva non usciva manco l'altro. Sì, sono, come si chiama, gli inseparabili, i pappagallini. Adesso vai un po', quando per esempio lui fa la dialisi che ha le 4-5 ore e deve essere attaccato a una macchina, allora lì si prende il tram, si fa un giretto a Sassari e poi se ne scende per non stare da sola. Ho capito. A proposito di separabili, è la quinta coppa che mi fanno e adesso ci sono i pappagallini che sono cresciuti e ne stanno facendo un'altra. Se tu cosa ne fai? Li vedi, li porti in negozio? Sì, li vendo perché non si possono tenere tutti questi pappagalli, che se ne ho solo 3 io di quelli grandi, quelli che parlano, poi c'ho gli inseparabili che sono della mia compagna, li avevo presi io perché abbiamo trovato un'occasione, li abbiamo preso una coppia, questa coppia era prolifica al 100%, poi sono allevati a mano, quindi ti vengono sul dito, sono bene. C'è anche mio cognato, una volta uno gli è scappato anche dalla gabbietta, cioè non è che è scappato, i bambini hanno aperto accidentalmente diciamo la gabbietta e uno era volato, mi sa che non l'ha più recuperato. E a me non mi è volato quello grande, a me mi è volato quello che costa più 100. Oh, rilancia Mirko che io non lo sento. Mirko, non ti sente Franco, capito? Ti sento basso anch'io, però cioè il segnale è forte, ma la radio è bassa. Sì, la radio non è al 100%, se c'è un po' di cuore metti copre di radio. Però di segnale sei 7-8, capito? La radio però è bassa. E vabbè, dai, rilanciamo a Claudio, se c'è Claudio, che Claudio deve essere al telefono, avanti io Franco. Che zona è di Alghero, Mirko? Mirko, che zona sei di Alghero? Che zona sei di Alghero, Mirko? All'entrata di Alghero, fra. Vabbè, l'entrata al lato, diciamo, Fertilia o il Ruscello? Più o meno dove abitava Pinangelo, Mirko, ma Gutto. Comunque, io sento che parla, non capisco nulla. Sì, ho capito, ma è vicino al Ruscello lì. Ho capito. dove c'è la stazione elettrica. È copiato, Fra. No, non ho capito dove la... Quindi dalla parte del ruscello oppure dalla parte di Fertilia? Dalla parte dove c'è la stazione elettrica. Dov'è la stazione elettrica? Boh. Non lo so manco io. Cioè, lui, diciamo c'è tre ingressi Alghero, guarda, c'è Villanova, c'è la Bosa, dai. Poi qual è di Olmedo, di Ruscello e poi qual è di Fertilia? Sì, vabbè, non sono riuscito a capire dove esattamente nemmeno io. Andavo. Vabbè, fratello, adesso... Comunque sento che sta parlando, Sì, non so, io sono anche agganciato, probabilmente che lui ormai un po' mi senta, ma io proprio non riesco a arrivare, eppure non ho QRM. Sono le 8 meno un quarto, circa, dai. E fra un po' mi penso di portare il cane, qui ha mio malincuore, oggi non c'è la mia compagna, quindi... lo devo portare io, lo sto piccando, lo porto. Sì, facciamo sì stasera. Lei è andata a trovare i nipoti, è andata. E quindi non c'è qua con il dottore. Va bene, Claudio, ancora il telefono. Claudio, è innamorato. Non c'è più nessuno, no? Ma è entrato Luca Flipper poco fa, poi Massimiliano c'è stato poco e se n'è andato, e insomma poca gente. E ancora c'è caldo, vabbè, magari come dicono le giornate più corte, cambia l'orario, magari qualcuno uscirà a pizza, come si dice. E vedrai come piove d'inverno, oi. Come piove se vincavano tutti in casa, lo vedi i cartaglietti? No, ma che brutto adesso. Già c'è caldo, adesso questi giorni stiamo un po' soffrendo, però ci mancherà poi, specialmente le bollette quando arriveranno. Guarda, ci stanno portando a un punto di povertà brutto. C'è gente che non grava via più. Sì, ma ci stanno marciando sopra, speculando, perché questi aumenti sono tutti ingiustificati. Perché se in corso i pellet costano sempre 5 euro come l'anno scorso, perché in Italia, in Sardegna, deve costare 10, 11 euro, 12 euro? Boh. Ma poi anche il gas, avevano detto che l'avevano preso da altri paesi, quindi che problema c'è? Adesso aumenta anche il gas, boh. Il gas noi abbiamo giacimenti nell'Adriatico, dove gli altri pompano a nastro, tipo cosa abbiamo lì, Albania e Croazia, cosa vale? No, quelli pompano gas, ma milioni di metri cubi all'anno, perché noi invece stiamo lì a guardare? Cioè quelli ci stanno svuotando diciamo parte del sottosuolo nostro, perché è anche nostro quel mare, è anche il nostro, e loro sì e noi no, perché quindi c'è roba dietro, dai. Sì, quello l'ho già appunto, qui con le piattaforme prima erano ferme, poi siamo andati alla Croazia. Sì, cioè sono un paio ferme nostre, invece gli altri stanno pompando a nastro, tranquilli, e noi pagando anzi lo pagheremo quest'anno a prezzo d'oro, però sta scaldando un po' i finali dietro, come mai? Cosa? Perché i finali dietro sono un po' caldi, no? Non bruciano, però sono un po' caldi. Col caldo che c'è fra è quello, e ci vorrebbe una ventola esterna. C'è caldo, se no li metti il ventilatore dietro. Di quelle ventole da computer ci vuole. Una l'ho messa al trasformatore, all'alimentatore. Qua ancora non gliel'ho messa. Controllo stazionale, non ne ho. No, aspetta, un po' invece ci sono, Scusa, Hola. Forse c'era un po' stazionale, come ha attaccato lineare. E forse ha raccordato un qualche altro canale, magari sui canali alti, boh. Ah, ok, avanti. Esci quando durano, poi devi comprare anche tu quelle che ti propongono, lo so. Le scorte si quando durano. E lo so, la legna va bene, in campagna, si sa. Però noi abbiamo riscaldamento, io perlomeno ce l'ho a gasolio. Gasolio, se aumenta il gasolio, aumenta anche il condominio, aumenta un po' tutto. Ci stanno giostrando su tutto, luce, gas, benzina, gasolio, insomma ci stanno giostrando su